Io non ho nulla contro questo mio fratello. È lui che è arrabbiato, peggio per lui. E invece questa frase di Gesù è decisiva ed è quella che fa la differenza tra il buon senso e il Vangelo. Perché far la pace tra fratelli la possono fare anche i non cristiani. Ma far la pace con un fratello col quale tu hai pace, ma lui non è in pace con te, questo è solo del Vangelo. Ed è ben giusto che sia così. Gesù ha ragione, perché lui vuole tra i suoi discepoli quell'unità che è la sua vita, è la vita della Trinità. E allora, siccome noi diciamo sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, Gesù ci dice come in cielo, così in terra. State nell'unità e nella pace. Come fare? Anzitutto vi dico un po' una mia testimonianza, perché se io dovessi fare una predica per voi, uno dice, ah beh, va bene per tutti e per nessuno. Ma io ve la dico per me, perché anch'io sono fatto come voi, di carne e ossa. Anzitutto devo cominciare a fare un profondo esame di coscienza, ma un profondo esame di coscienza, perché magari io non sono consapevole. Siccome io non ho nulla contro, non sono consapevole se ci sia qualcuno che abbia qualcosa contro di me. Allora io questo l'ho fatto oggi e mi sono accorto di un sacerdote che è molto legnoso nei miei confronti e a disagio. Ho riconosciuto umilmente che questa difficoltà esista. E poiché ritengo che sia difficile, ci conosciamo troppo bene, il nostro carattere reciproco, è scaturita in me una preghiera. Ho detto a Gesù: Gesù, ammorbidisci la mia coscienza e la coscienza di quel sacerdote, ammorbidiscila tu. Poi ho capito che dovevo scrivergli un messaggio. Ma sorgevano dentro di me tante obiezioni, mille ragionamenti, ma l'hai fatto anche in passato, ma neanche ti risponde, ma poi perché sempre tu, ma poi quello crede che c'ha ragione lui. Ma di fronte a tutto questo mi son detto, no, il Vangelo deve vincere lui, il Vangelo. Allora gli ho mandato un messaggio. Non mi importa, cioè mi importa sì, ma me lo faccio non importare se mi risponderà o se non mi risponderà. Io sono contento di una cosa, che sono riuscito a mettere il Vangelo al primo posto e a obbedire al Vangelo io.